La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. L'articolo 5 siamo ancora fra i principi fondamentali e si affronta la questione dell'articolazione territoriale dello Stato. Lo Stato italiano veniva tradizionalmente da un'organizzazione fatta di province e comuni e per tutta l'epoca del Regno d'Italia, dello Statuto Albertino, ci si era sempre accorti dei grandi problemi di distanza e di distacco che c'erano nelle diverse aree del paese. Ecco allora che i costituenti cercarono di inventarsi un qualcosa che potesse aiutare una maggior amalgama nazionale e nasce così l'idea delle regioni, questi macro accorpamenti, queste aree che potessero maggiormente avvicinare i cittadini e quindi creare l'unità nazionale. Quindi il Costituente sceglie una Repubblica articolata sul territorio, una Repubblica che abbia regioni, province e comuni. Una Repubblica che riconosce e promuove queste autonomie, ma comunque una e indivisibile. Questo ci dà proprio l'idea dello Stato nazionale unitario. I costituenti lavoravano con questioni territoriali molto forti, ancora scottanti. La questione istriana, Trieste, l'Alto Adige, la Sicilia, che aveva chiesto un'autonomia speciale precostituzionale. Ecco allora che i costituenti pongono saldamente una indivisibile. È impensabile che l'Italia si possa scindere. Avrà delle autonomie speciali rafforzate, ma sempre unitarie. Questa è anche una risposta in questi giorni di referendum per le secessioni, come la Catalogna, o come può essere stata la Scozia, o come può essere stato il Quebec in Canada, ci fa capire che in Italia invece la Repubblica resta unitaria, pur promuovendo e riconoscendo la massima articolazione territoriale.